Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione dedicata alle istanze, alle iniziative e alle pratiche del movimento animalista, antispecista e vegan. Una voce che va in onda settimanalmente dal 2012 per dare considerazione e attenzione agli individui non umani, commentando fatti di cronaca e cultura dal punto di vista degli altri animali nel loro interesse. Lo facciamo anche per fare della società umana una società migliore, come ci piace dire, una società cruelty free. Siamo arrivati con questa alla puntata numero 562, nella quale parleremo di lupi ed elezioni, un toro che non si è seduto, profumo di soldi e il libro di ricette che mancava. Speriamo di avervi incuriositi. La prima notizia, stiamo nell'attualità per denunciare come anche gli animali in fondo siano oggetto di propaganda elettorale. Ci riferiamo alle elezioni che stanno impegnando gli Stati Uniti d'America. Oggi, mentre registriamo questa puntata, non sappiamo ancora chi sarà il vincitore. Certo, abbiamo delle speranze, ma ancora nessuna certezza. La notizia che vi portiamo riguarda l'amministrazione di Donald Trump, che ha definitivamente revocato la protezione al lupo grigio e a molte altre specie in via di estinzione. Cosa non si farebbe per vincere le elezioni? Evidentemente questa decisione, annunciata già a settembre, aveva come obiettivo quello di attirarsi la simpatia di chi anela a sparare a più animali selvatici possibile, contando sulla indifferenza di chi la caccia non la pratica. A festeggiare la vittoria di Trump, insomma, se sarà lui il vincitore, non saranno certamente i lupi grigi né gli uccelli migratori. Uccisi dai cacciatori, intrappolati, avvelenati, fino a raggiungere quasi l'estinzione nel secolo scorso, i lupi negli Stati Uniti sono tornati a popolare la regione dei Grandi Laghi e poche altre parti del nord, ma ne restano solo 6.000. Secondo l'amministrazione Trump, il lupo si sarebbe ormai biologicamente rafforzato a sufficienza e la sua rimozione dalla lista dimostrerebbe, questo è l'argomento usato, l'efficacia dell'Endangered Species Act. Lo abbiamo protetto, sta bene, ora non serve più. Il senso è questo. La Humane Society degli Stati Uniti e altri gruppi di protezione della fauna selvatica sostengono però che i lupi siano ancora animali vulnerabili. L'abbandono delle protezioni condanna ogni possibilità di diffusione dei lupi in altri stati, dove potrebbero invece prosperare se solo gli umani glielo permettessero. Ma gli animali, come denunciamo da sempre, sono considerati cose inanimate, al punto da farne un uso politico. In questo caso, merce di scambio per un pugno di voti. Get down to it. abbiamo parlato dei lupi americani rientrati a far parte dei carnieri di caccia negli Stati Uniti. Sempre a proposito di caccia, questa volta andiamo in Francia, dove una notizia del 30 ottobre scorso ci porta invece un esempio da seguire. La Francia, ci segnala la sezione francese dell'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, con entrata in vigore del lockdown, ha sospeso tutte le forme di caccia fino al 1 dicembre. Sempre l'OIPA auspica che nei prossimi provvedimenti del governo italiano, volti a contenere la crescente diffusione del Covid-19, sia prevista esplicitamente anche la sospensione di tutte le attività venatorie. Previsione non espressamente contemplata finora nei DPCM antipandemia. L'OIPA chiede dunque al presidente Conte di prevedere il blocco esplicito delle attività venatorie, attività sicuramente differibili. Non solo l'attività venatoria è sicuramente differibile, aggiungiamo noi della redazione, ma dovrebbe essere differita sine die per sempre in quanto nociva sia al benessere di una società allargata composta da individui umani e non umani, nonché anche a un corretto equilibrio ecologico tra le specie. Vedremo se il governo accoglierà questa richiesta così sensata. Il 29 ottobre Repubblica.it nella sua edizione locale di Bologna ha pubblicato una notizia che fa riflettere. La notizia recita così: finisce senza lieto fine la fuga del toro che stamattina a Castelfranco Emilia in provincia di Bologna è scappato da un allevamento facendo perdere le proprie tracce nella campagna circostante. Il giovane toro, dal peso di 400 kg, era scappato durante le operazioni di scarico dal camion che lo aveva trasportato dalla Francia. Avvistato da un guardiapesca volontario nei pressi del fiume Samoggia, l'animale è stato avvicinato dagli agenti della polizia municipale ed abbattuto per evitare pericoli per la popolazione, viste le condizioni di alterazione del bovino. Il toro, si legge sempre nella nota, stava puntando verso il centro abitato di Bazzano. Questa notizia ci parla di un giovane toro che, dopo aver subito un trasporto durissimo dalla Francia fino alla provincia di Bologna, non si è lasciato trasbordare e, nonostante le modalità sicuramente non gentili dei suoi persecutori, si è divincolato con tutta la sua possenza si è liberato ed è fuggito, conquistando con le sue sole forze la libertà. Ciò non di meno, il toro è stato abbattuto perché la sua incolumità non interessa a nessuno. Il toro è un pezzo di carne da rivendere oppure una macchina per inseminare. In ogni caso, parafrasando il presidente della regione Liguria, il toro è utile allo sforzo produttivo. Se non lo si può sfruttare, si può sempre uccidere e rivendere in pezzi. Viene da chiedersi che senso abbia anche a fini produttivi il trasporto di un toro dalla Francia a Bologna. E viene da chiedersi che mondo è anche dal punto di vista paesaggistico quello in cui un toro non riesce scappando a trovare un riparo, un bosco per nascondersi. La pianura padana e le sue coltivazioni intensive evidentemente non lasciano scampo. Non è insomma a misura di vita animale questo ambiente nel quale siamo immersi e il prezzo che stiamo pagando per averlo così ridotto è altissimo. Le carni di quel bovino adulto verranno vendute e chi le cucinerà non saprà mai nulla della sua storia, che è iniziata in Francia ed è terminata con alcune pallottole sparate a interrompere la sua fuga nelle campagne bolognesi. Il prezzo all'ingrosso dei quarti anteriori di un bovino adulto è di 1,7 euro al chilo. I quarti posteriori, sempre all'ingrosso, vengono venduti a 3,29 euro al chilo. Ashes to ashes, fun to fuck it, we know. prendiamo la prossima notizia da fanpage.it del 4 novembre 2020. Il fiuto non ha tradito Heidi, un pastore tedesco di 3 anni in servizio presso la Guardia di Finanza di Malpensa. Il cane antivaluta è riuscito a fiutare 32.000 euro che erano stati nascosti in una valigia all'interno di diversi pacchi di pasta. I soldi erano nascosti nel bagagliaio di un passeggero in transito. L'uomo aveva dichiarato ai finanzieri di avere con sé una cifra inferiore a quella consentita dalle normative vigenti, cioè 10.000 euro. Ma il comportamento del cane ha convinto i militari delle Fiamme Gialle e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad approfondire i controlli. E così, dalla valigia, tra i pacchi di pasta, sono spuntati fuori i 32.000 euro che il viaggiatore ha dichiarato essere risparmi di famiglia. Una giustificazione che non gli è servita per evitare il sequestro amministrativo del 50% dell'eccedenza della valuta consentita. Ma chi sono i cash dog e come vengono addestrati? Nel portale zampadicane.it troviamo le seguenti dichiarazioni. I cani impegnati nelle unità cinofile della Guardia di Finanza sono in prevalenza cani di razza Labrador, particolarmente docili, dotati di grande olfatto. Fin da cuccioli sono abituati a riconoscere l'odore delle banconote anche a distanza, nascoste nei doppi fondi dei veicoli, dei bagagli, ovvero occultate nei modi più stravaganti. I cash dog vengono addestrati come i cani antidroga. Prima frequentano un corso base di 6 mesi, poi proseguono l'addestramento presso i reparti di destinazione. Per abituarli al caratteristico odore delle banconote viene usato denaro deteriorato che viene ritirato e sminuzzato dalla Banca d'Italia. Sono stati scelti i Labrador perché il loro olfatto si presta a questo particolare compito, ma anche perché incutono meno timore nei passeggeri. Un addestramento lungo e complesso durante il quale i cani, giocando, imparano a fiutare il denaro. Così come per i cani antidroga, il lavoro del cash dog ha la caratteristica del gioco. Ad ogni ritrovamento il conduttore regala una pallina da tennis e il prezioso impegno così diventa sempre un'occasione di grande divertimento per l'animale. Sono molti i dubbi che ci suscitano queste affermazioni. Non ci convince affatto l'idea di ammaestrare i cani per averli al nostro servizio, attraverso condizionamenti di pavloviana memoria. Sarà una bonne sposa chiova chiova a ti se scurtava. Cogliamo l'occasione per ricordare un altro animale che ha dovuto svolgere, suo malgrado, un lavoro a nostro parere utile. Un animale sacrificato in nome della scienza dopo un lungo addestramento, Laika, la cagnetta astronauta accalappiata nella periferia di Mosca e sacrificata nella corsa allo spazio. Lanciata in orbita il 3 novembre 1957, fu imbarcata a bordo della capsula spaziale sovietica Sputnik. Si disse che aveva resistito 7 giorni, ma non era vero. Morì poche ore dopo il lancio perché il suo cuore fu schiantato dal panico e da una solitudine incomprensibile. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Stavolta niente ricetta. Poiché è appena uscito l'ultimo libro di ricette di Gabriele Palloni, vi proponiamo un'intervista allo chef a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci. Salve, siamo con Gabriele Palloni, questa volta nella veste di intervistato. Gabriele, da diversi anni, è il titolare della nostra rubrica Il Pasto Gentile e ogni settimana si inventa una ricetta collegata alle notizie della puntata. Stavolta è con noi intervistato perché è autore di un nuovo libro, Se vuoi essere sano, cucina vegano, pubblicato da Newton Compton. È il secondo libro di Gabriele, l'altro pubblicato qualche anno fa era Cucina regionale italiana vegana, sempre per l'editore Newton Compton. Gabriele, intanto complimenti per questa nuova uscita. La prima domanda è questa: un lettore perché dovrebbe comprare questo libro anziché un altro fra i tanti che ci sono in libreria? Ciao Lorenzo, grazie per la premessa e per l'intervista. A parte il fatto di avere 320 ricette divise per stagione, quindi sono indicazioni per poter utilizzare quotidianamente quello che la natura in quella stagione ci offre. Quindi questo è uno dei motivi. Mangiare sano perché, come dice il titolo, non solo stando attento a quello che uno mangia, ma mangiare sano a 360 gradi, cioè qualcosa che fa bene non solo a noi ma all'ambiente. In questo momento credo che ci sia grande bisogno più che mai. Il terzo motivo per cui comprare il libro, ma non comprarne uno solo, comprarne tanti, è perché il costo è veramente alla portata di chiunque. Sono 360 pagine, sono €5,90. Quindi fa di questo libro un ottimo regalo di Natale. Ecco, abbiamo dato un primo consiglio agli ascoltatori. Gabriele, per chi non ti conosce, raccontaci brevemente come hai cominciato, com'è che sei diventato da cuoco, chef classico, specializzato in cucina vegana. Allora, io ho iniziato a lavorare nel 1985 e pochissimo dopo ho smesso di mangiare carne. Inizialmente ero un'alimentazione vegetariana. Poi nel 2011 sono passato da vegetariano a vegano e in quel momento ho anche deciso che non avrei cucinato nemmeno per altri. Ho iniziato a cucinare molto giovane, nell'85, e era impossibile lavorare a Firenze se non in ristoranti o di cucina tipica o comunque tradizionali, ma la cucina vegan non era per niente presa in considerazione. Per cui, diciamo, il mio lavoro si è svolto in quello, anche se personalmente ho fatto una ricerca perché proprio per la mia sopravvivenza, oltre al gusto di cucinare. E quindi ho cominciato a elaborare piatti vegetali e, diciamo, per coerenza e proprio per andare sempre più in direzione di questo nel 2013 ho deciso di mettere la mia, il mio lavoro totalmente in questa direzione, per cui cucina vegetale al 100%. E tu come rispondi a chi ti chiede a bruciapelo perché sei vegano? Per empatia, non riesco a mangiare la vita di altri, cioè mi fa proprio stare male. E mi sembrava strano poter soffrire per la morte di un animale domestico e non per un animale che mi ritrovavo nel piatto. E da lì è partito il percorso che ci hai raccontato. Gabriele, un'ultima domanda. In questo libro ci sono 300 ricette, nell'altro forse ce n'erano altrettante dedicate alla cucina italiana e poi molte te ne inventi, ti mettiamo spesso alla prova con le notizie che di settimana in settimana devono ispirare la tua soluzione. Di tutte le ricette che hai provato, sperimentato, ideato, qual è quella che a te piace di più? Quella che piace di più a me sono le freschine di Prato, è uno dei dolci che mi piace di più e sono riuscito a farle in versione vegan soddisfacente per diciamo, il mio palato. E questo è uno dei piatti che mi ha reso più contento anche dal punto di vista grafico, perché è venuta una foto secondo me meravigliosa. Colgo l'occasione per ringraziare Luca Daddi che ha curato le foto anche di questo libro, è stato bravissimo. Una ricetta invece che consiglio per questo periodo sono le scaloppe di zucca al cavolo nero, in salsa di cavolo nero. Facilissima, veloce, con verdura di stagione, buonissima. Bene, però questa volta non la sveleremo subito ai nostri ascoltatori. Sì, la daremo la prossima settimana in anteprima, intanto come un trailer per chi si vuole comprare il libro. Ecco, benissimo Gabriele, grazie. Ribadiamo il titolo del libro, Se vuoi essere sano, cucina vegano, editore Newton Compton, 300 ricette della tradizione facili e sfiziose per mangiare ogni giorno con gusto, il tutto per 5,90 €. Shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia e che ringrazia Gianluca Masala per il raffinato montaggio musicale. L'appuntamento con la puntata numero 563 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.